potrebbe andare tutti allo zoo comunale, vengo anch'io notturno per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io notturno, vengo anch'io notturno, ma perché? Perché no? Potrebbe andare tutti quanti alla che primavera, vengo anch'io notturno con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io notturno e vengo anch'io, vengo anch'io, ma perché? Perché no? Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io notturno per vedere se la gente poi piange davvero e scoprire che invece battono anche le suore e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io notturno, e vengo anch'io notturno, vengo anch'io notturno. Ah, perché? Perché no? Allora, eccoci qua, domenica mattina, stamattina quasi cominciamo in orario perfetto, solo 3 minuti alle 11, sono le 11.03, all'orologio elettronico atomico che c'ha Radio Onda Rossa. Allora, intanto cominciamo, dopo aver dato l'orario, diamo anche i numeri importanti per la sottoscrizione, per aiutare che questa radio viva, continua a dar voce, parlare dei fatti che gli altri non parlano o ne parlano in maniera distorsiva. Noi ne diamo una versione più obiettiva, più reale, più vicina alla realtà. E allora il numero di conto corrente postale 6180 4001 serve per sottoscrivere a questa radio, fare con questo numero un conto corrente postale intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56, oppure venire qui direttamente in radio e portare la sottoscrizione, così gli compriamo un microfono nuovo a Roberto che si sta già attrezzando per cercare di parlare. Insomma, l'altro numero molto importante per chi vuole intervenire, che vuole dirci la sua, chi ci vuole segnalare i fatti che gli accadono, come le vivono, è il numero che è storico, ormai penso lo conoscono tutti, è il 06 49 17 50 e si può intervenire in diretta a questa radio. Stamattina, no, il solito coso, io comincerei con uno slogan che è strillato ancora oggi. Forse c'è qualcosa che non va alla radio, perché se squillano già subito, rispondete al telefono, rispondete là. E qui ecco. Allora, lo slogan che noi vorremmo subito fare è quello che noi strilliamo sempre più e sempre con più forza ai cortei: pagherete caro, pagherete tutto. Solamente che questa volta questo slogan in maniera molto più pratica lo stanno rilanciando Marchion e La Forniero assieme a Monti, perché stanno facendo tutta una serie di azioni veramente micidiali, sia nell'ambito della riforma del lavoro e sia nell'ambito delle politiche sociali e sia nell'ambito di quello che sta a fare Marchionne alla Fiat, in cui ha detto o accettate questo accordo o se no vi chiudo le fabbriche, hanno accettato l'accordo, i soliti firmaioli hanno accettato le cose, poi adesso ha detto guarda c'è stata un'altra due fabbriche, che chiuderanno qui alla Fiat. Ma in ogni modo noi questa prima tratta di trasmissione, dato che abbiamo qui con noi un operatore molto attivo all'interno del pronto soccorso del Policlinico, e dato che questa settimana è diventato un fatto mediatico, no? Ne parlano tutti, il dramma, sembra che hanno scoperto l'acqua calda, da Peppe ce lo facciamo raccontare che so anni che le cose vanno così, perché vanno così, e le cose che vengono segnalate, se non arriva Gramazio non le piano sul serio, poi quando denunciano i lavoratori magari reprimano i lavoratori che segnalano le situazioni, perché all'ospedale avviene così. Io un par di mesi fa c'ho avuto mia moglie come caso, adesso non è che mi sta ascoltando, ma è entrata per un incidente al pronto soccorso per farsi fare delle visite, perché aveva avuto la botta tradizionale, una tamponatura al collo. È entrata la mattina e riuscita, la sera al lunedì è tornata a casa. Un codice bianco è un disastro dentro l'ospedale, perché ti mettono sempre in fondo. E questi codici normalmente vengono fatti per gli incidenti, il motorino che cade, sta roba così. Arrivano là, ti abbandonano, ti mettono le stecche e nessuno ti soccorre. Poi Peppe se ciò conferma o meno. Perché tu diventi l'ultimo, quasi uno che fai perdere tempo. E però quello che subisce, che è quello che sta male in quel momento, è il guaio più grosso che sta vivendo in quel momento, è per lui. Però per l'economia della situazione è così. I pronto soccorsi rimangono affollati, no? La famosa piazzetta, ma quelle piazzette stanno in tutti i pronto soccorsi così, affollati, gente con l'ossigeno, quelle uno ammucchiati sopra l'altro, perché non si trovano i posti ai reparti. I reparti non mettono a disposizione, diciamo, il turnover dei ricoveri, no? I posti che si liberano per le dimissioni. Molti di questi posti ci sono i medici con le loro intramenie che le gestiscono in maniera clientelare, mettendo in difficoltà le emergenze, no? Mettendo in difficoltà proprio quelli che si rivolgono all'ospedale. Dopodiché, perché l'ospedale e i pronto soccorsi sono sempre affollati? Perché anche i medici famiglia lavorano 3-4 giorni, sono disponibili a settimana, però se uno si sente male quando il medico non è in servizio non sa dove andare. Neanche le guardie mediche sono così attive per poter intervenire. Vabbè, prendi la tua. Sì, allora, raccogliendo anche un appello di Ettore, insomma, no? Che ci ha fatto dopo le ultime trasmissioni, di lasciare un po' da parte l'analisi teorica e occuparsi più di quello che si muove, che si agita nel movimento, insomma, dare più spazio alle lotte. E quindi oggi appunto parleremo di sanità, visto che è un po' all'ordine del giorno, no? Su tutti i giornali da un po' di tempo si parla della situazione della sanità nel Lazio, in particolar modo vista anche il buco, diciamo, di debito economico che si è creato, per cui come al solito per recuperare su queste situazioni, no, che si fa? Si tagliano appunto i posti letto, si accorpano ospedali, si chiudono pronti soccorsi e così via. E quindi abbiamo qui un compagno che appunto opera in questa situazione, quindi vive, no, dal di dentro questo tipo di realtà. Però una cosa è giusta dirlo, insomma, io credo che noi non dobbiamo limitarci a fare, anzi io assolutamente non credo che dobbiamo fare i sindacalisti del capitalismo, no? Cioè, nel senso che non sta a noi, come dire, limitare la nostra azione a migliorare quella che è il modello, la società capitalistica. È evidente che a partire dalle contraddizioni più macroscopiche, no, comunque deve sempre rimanere l'orizzonte dell'alternativa a questo modello di società. Detto ciò, come premessa, vediamo di entrare un po' nel merito, no, di questa situazione sulla sanità, eccetera. Io ho qualche timore, perché in genere quando devono intervenire pesantemente su qualche situazione fanno precedere, no, un po' di tempo prima, con una campagna mediatica gran casa, scandalistica, gli sprechi, le cose, eccetera, uno dice: beh, vedi, stanno intervenendo, no, su una situazione che non funziona. In realtà tutto sto battage mediatico che si fa poi porta inesorabilmente invece a peggiorare le situazioni, non a migliorarle, perché la ricetta è sempre quella che non va nella direzione di offrire un servizio migliore alla collettività, ma quella eventualmente di indirizzare le risorse che ci sono in un modo piuttosto che in un altro, ma di certo non vanno mai nella direzione, appunto, di migliorare il servizio alla collettività. Allora, non so, diamo la parola direttamente a Peppe, che magari ci illustra un po'. Va bene, dai, perfettamente. Con una domanda, sì, così, tanto per provocare subito, dato che è un lavoratore. I lavoratori all'interno di questo servizio, anche se sappiamo che molti sono precari, molti sono messi male, no? Non è che più ci sta molto lavoro esternalizzato, servizi che vengono forniti da cooperative, da intrufoloni, no? Vedi pure gli appalti di manutenzione come funzionano. Cosa fanno? Come mai? No? Io mi ricordo, forse nella mia cosa, adesso questa qua, non è anziano, comincia a parlare, che una volta si occupavano i letti, prendevano i lavoratori del policlinico, prendevano gli ammalati e le portavano loro ai letti che la baronia occupava. Insomma, queste cose, il policlinico in particolare si è distinto parecchio per questo. Adesso come mai c'è quasi un'indifferenza? Quasi, io ho visto, c'eri pure tu l'altra sera a Piazza Pulita, che cercavate quasi di difendervi dall'attacco, perché come se quelle cose è responsabilità dei lavoratori e non responsabilità della gestione. Insomma, se Peppe ci puoi dire qualcosa, no? Beh, non è semplice adesso, diciamo, cercare di affrontare un discorso così grosso. Partendo dalla tua domanda, come mai oggi non avviene più quello che avveniva 30 anni fa? Io penso che perché sostanzialmente viviamo totalmente in un altro mondo, in cui sono cambiate molte molte cose, e soprattutto è cambiata una forma di, non so se definirla coscienza o valoriale che animava, insomma. Io penso che se i lavoratori oggi, diciamo, sono succubi, questo non è che avviene al policlinico, questo avviene, diciamo, in tutte le parti. Probabilmente, io penso, perché non vedono un'alternativa collettiva che possa, diciamo, far cambiare queste situazioni. Cioè, se uno la situazione non la può cambiare, sente che non la può cambiare, io penso che in qualche modo cerca di cavarsela, tentando di sopravvivere in questa situazione in cui questi valori, queste forme, questo ideale, questa punto d'arrivo, insomma, non lo vede. Questo è un discorso un po' così generale. Dopodiché, per entrare minimamente nello specifico, allora, quel problema della questione della sanità è una questione immensa, che pone dei problemi, secondo me li porrebbe anche una società avanzatissima, perché è cambiato proprio il modo di come rapportarsi, diciamo, è cambiata anche proprio l'esigenza sanitaria oggi viviamo sostanzialmente, si vive comunque di più. E non è però che si vive sempre meglio di più. Arriviamo a vivere di più perché abbiamo degli ausili, delle cose di medicina, degli interventi, comunque un'azione che ti prolunga la vita, ma te la prolunga mettendo delle toppe. E quindi tu ti trovi sempre più persone che si trovano in una situazione precaria, che hanno un bisogno di intervento maggiore dell'assistenza sanitaria. E questo è un problema mondiale, un problema che ci hanno tutti quanti. Ora, è un problema a cui bisognerebbe rispondere, ci sono i modi anche per rispondere a questa cosa, o almeno per tentare, per farlo, e non è che bisogna inventarsi poi molte cose. Purtroppo ci troviamo in questa situazione qui in Italia, o ma anche in molte altre parti, dove la finalità, diciamo, non è questa. Alcune cose, voglio dire, sono ormai chiare, si è visto, l'hanno provate. Allora, tanto una cosa, l'ospedale fa male, l'ospedale deve essere usato sostanzialmente solamente per acuti, perché noi, il modello che abbiamo oggi, per cui si risponde a tutto con l'ospedale, è un modello sbagliato, questo l'hanno capito tutti, cioè chi studia queste cose, chi ci ha provato a farle, l'hanno capito, deve funzionare in altro modo, cioè perché un paziente cronico non puoi pensare che svolga la propria vita dentro un ospedale, quello deve trovare soluzioni di fuori, proprio per la qualità della vita che gli devi dare. L'ospedale è un'istituzione totale, tu puoi fare qualsiasi cosa, ma tu comunque lo sradichi dal suo ambiente, lo metti in un ambiente che funziona totalmente in maniera diversa, che ti spersonalizza, che sta dentro questo ingranaggio. Quindi serve l'ospedale, serve quando devi fare delle cose che non si possono far fuori, perché sennò devi trovare il sistema per farle fuori. E questo, diciamo, nei paesi più tra virgolette civili, è questa la strada che si sta seguendo. Cioè, che cosa fare? Far funzionare gli ospedali solamente per quei casi e per quel tempo molto limitato che serve. Dopodiché tu devi attrezzare e organizzarti per far vivere nel proprio ambiente, con tutte le garanzie possibili, quel paziente, perché la qualità della sua vita migliora. E questo, diciamo, è un indirizzo che bisognerebbe fare. E invece questo non si fa, sostanzialmente questo non si fa. Per venire, diciamo, poi al discorso dei pronto soccorsi, che cosa è successo? E qui parlo in generale, non parlo del Policlinico, perché il Policlinico è diciamo un ospedale universitario che storicamente c'ha, diciamo, c'ha delle peculiarità, ma i pronto soccorsi 2-3 anni fa dentro gli ospedali romani non erano così, e nel senso che l'unica piazzetta in tutti gli ospedali romani era quella del Policlinico, che praticamente dura da quando è stato aperto il pronto soccorso, accorpato, insomma, ristrutturato completamente, e questo è avvenuto all'incirca nel 2000, quindi 12 anni fa, forse anche prima. Noi siamo partiti subito con la piazzetta, noi abbiamo avuto questa condizione da sempre, ma se tu andavi, che ne so, al San Camillo, al San Giovanni o negli altri ospedali, non era così. Cioè il pronto soccorso faceva il suo lavoro di pronto soccorso, che era quello di vedere il malato, filtrarlo, stabilizzarlo e poi inviarlo. Intanto diciamo una cosa, non c'è alcuna ragione al mondo per cui un paziente rimanga più di 2 ore dentro un pronto soccorso. Non esiste. Perché entro 2 ore tu fai tutto quello che devi fare. Dopodiché, se deve fare qualcosa il paziente, e quello è il tuo compito, capire se deve fare qualcosa, lo devi mandare da quello che fa come lavoro quello. Quindi il tuo compito è quello, si esaurisce là. Devi filtrare, perché l'accesso ai pronto soccorsi aumentano continuamente, ogni anno ce ne sono di più. Quindi tu, problema che ti devi porre è filtrare questi pazienti, capire a quelli che puoi risolvere subito, e in 2 ore, 3, possono essere 4, ma sostanzialmente i modelli dicono 2 ore. O lo mandi a casa, o gli dai l'appuntamento il giorno dopo per andare in ambulatorio per seguirlo su certe cose, o lo mandi a fare quelle cose di urgenza. Voglio dire un'altra cosa, la medicina è cambiata negli ultimi anni, perché se 20 anni fa, 30 anni fa, veniva quello con l'infarto o con l'ictus, e te, oltre che fai un po' di morfina, mettergli l'ossigeno, controllargli i parametri, aspettavi, sperando che ce la facesse, oggi tutta la dinamica dei pronto soccorsi su queste patologie che sono grosse, che sono le principali, che sono gli ictus cerebrali e sono gli infarti, sono le ischemie del cuore, tu hai un tempo molto preciso dove agire. Questo tempo va sostanzialmente oggi dalle 3 alle 6 ore. Tu in questo tempo devi fare delle cose, perché a quelle persone puoi cambiargli la vita. Cioè dipende se rimane su una carrozzella, se no, se muore o no. Rispetto alla massa di persone che ti viene tutti i giorni in pronto soccorso, il tuo compito sarebbe quello di individuare queste persone e procedere su questo. Quindi è cambiato il concetto del pronto soccorso molto da questo punto di vista. E se il pronto soccorso diventa un'area impropria di parcheggio, dove praticamente tu, siccome non sai dove mettere i malati, te li tieni là, tu questo lavoro non lo riesci a fare. E quindi finisce proprio la funzione che c'hai. E te scappano quelli che potresti effettivamente cambiargli le cose. Quindi questo è il quadro della situazione. Che cosa è successo nei pronto soccorsi romani? Che c'è stata una diminuzione di posti letto nella regione. Circa 2.500 posti letto se ne sono andati. È sbagliato? Ora possiamo discutere su caso per caso se è giusto o meno. In linea di principio non è sbagliato far calare il numero per acuti, perché in effetti il numero per acuti, gli ospedali che ci stanno, teoricamente i posti letto gestiti in un altro modo basterebbero. Il problema qual è stato? È che sono stati massacrati i servizi sociali, tutti. Non è stato fatto niente, anzi sono stati tolti tutte quelle forme di assistenza domiciliare, di assistenza, sì, tutte queste cose non ci stanno più. Invece queste dovevano essere proprio incrementate 10 volte di più, perché sono passaggi pure delicati. Tu chiudi un posto letto, devi avere un'alternativa a questo posto letto, devi instaurare dei meccanismi, bisogna studiarci sopra, bisogna fare, bisogna lavorarci per cercare di trovare una cosa. E questo praticamente ha provocato il fatto che l'unica risposta che tu avevi a disposizione, che era quella del ricovero, non bastava più, non bastava assolutamente più. E quindi praticamente tutta questa storia si è riverberata dentro i pronto soccorsi. Guardate, ci sono altri fattori. Qui io ti parlo al Policlinico, ma agli altri ospedali uguali, noi abbiamo una colonia di, come li chiamiamo, barboni, di emarginazione sociale, di disadattamento, che praticamente vertono ormai sull'unica struttura che è aperta 24/24, che non, comunque non te manda via, comunque qualcosa deve fare, comunque è un posto comunque caldo, è un posto dove comunque qualcosa da mangiare i medi. Ecco, questo è un altro dato. E poi qui esistono dei fenomeni che sono fenomeni sociali, che chiaramente continuano a vertere su l'unica struttura aperta, non solo questa, ma tutta una serie di cose, i disattaicosi, i psicotici, i tossico, e tutta questa storia qua, alla fine ti arriva là. È chiaro che tu non puoi dare risposte a tutto quanto il mondo, perché manca il resto, mancano tutte le altre cose. Scusa Peppe, una domanda, visto, approfittiamo visto che abbiamo Peppe qua. A me risultava pure però che si può discutere sulla questione dei codici, del ticket, eccetera, però risulta pure che era un po' un escamotage quello di andare al pronto soccorso, no? Spesso e volentieri, perché essendoci difficoltà a farsi ricoverare, a meno che uno non aveva una cosa proprio grave, insomma, eccetera. Per cui passando tramite il pronto soccorso si arrivava magari all'obiettivo di avere un ricovero o comunque un intervento abbastanza, come dire, coi tempi accorciati, piuttosto che passare per la strada principale, ossia quella di seguire, insomma, l'ordinaria strada, quella di fare la visita, eccetera, e poi vedere. Oh. A un certo punto sono stati messi i ticket, no? Facendo una distinzione sulla gravità che uno ha. Cioè, faccio l'esempio: se uno ha il colpo della frusta e un altro ha l'incidente, ha avuto un incidente grave, per cui arriva lì, no? E in determinate condizioni mi sembra anche normale che quello che sta messo peggio abbia la precedenza rispetto a chi ha una situazione meno grave. Il problema è che magari uno va lì con un codice bianco, no? E poi che è esente, insomma, da ticket, no? E però poi magari sta lì 10 ore, no? Senza ottenere nessun tipo di assistenza. Allora, da una parte forse era anche giusto introdurre queste forme di filtro, no? E dire precedenza a chi sta peggio. Il problema è che però nell'insieme non è che si è arrivati a una situazione ottimale, no? Le lamentele che ci sono è che comunque chiunque va a un pronto soccorso, anche se ha una cosa meno grave rispetto a un'altra, si lamenta per il fatto che magari sta lì ore e ore a aspettare senza ricevere nessun tipo di, come dire, di risposta. Non so, tu come la vedi sta vicenda, Peppe? Ma la vedo tanto una cosa. Può essere vero che praticamente in assenza di altre strutture uno si rivolge al pronto soccorso anche per le cose banali. Intanto dico una cosa, bisogna distinguere, perché allora, per esempio, tutta la traumatologia sostanzialmente non è un grosso problema per i pronto soccorsi, perché sono malati che si fanno presto, cioè risolvono. Se i tempi si allungano sono perché sono ingolfati dagli altri i pronto soccorsi. Ma io ti dico, in Inghilterra un colpo di frusta non va al pronto soccorso, va dal suo medico. Questo è, quindi ci sono comunque strutture, perché? Perché quello è aperto sempre, se è messo in cooperativa con l'altri, c'ha una struttura, diciamo, tu c'hai un'alternativa per fare queste cose. E poi un'altra cosa, chi pensa, sai, che no, quello che ti viene che ha la lombosciatargia e non si muove da una settimana, e siccome il medico gli ha dato la terapia non gli è passata, ti viene al pronto soccorso, quello non risolve il suo problema, perché quella struttura non serve a quello, quello serve solamente, viene lì, cioè come ragiona il pronto soccorso? Ti dice, ti sei rotta la schiena in qualche modo? No. Come faccio a vederlo? Ti faccio una lastra. Sei rotta? No. C'hai deficit neurologici importanti? No. A questo punto ti do la terapia e ti rimando a casa. Ma tu, tutte quelle cose che devi fare per eliminare quel problema, che sono sostanzialmente non solo la terapia medica, ma solo la fisioterapia, i centri di coso, il cambiamento delle abitudini tue che c'hai, quello tu non lo risolvi. E praticamente ti sei preso delle lastre che tu già hai fatto 20 volte, che non ti servono a niente, che ti... Ma il problema del medico là poi qual è? È che si deve coprire, quindi io ti faccio solo le cose per decidere che non è un'urgenza. Quindi è un circuito strano in cui c'è, diciamo, pure questo equivoco. Tu pensi che risolvi il problema, ma risolvi il problema perché io ti faccio la flebo antidolorifico, ti passa sul momento il dolore, ma quello te lo può fare pure il medico a casa. E non c'è bisogno che ti faccia un'altra lastra, l'ennesima lastra, questa iperdiagnostica che alimenta solo dei circuiti, dei sordi, delle storie, dei tangenti, delle cose, e che non serve assolutamente a niente. Perché se tu a voglia, qui noi siamo arrivati ormai a un punto in cui c'è questa iperdiagnostica, cioè esami su esami, consulenze, ridondanze di tutto, ma poi sul pratico tu non fai niente, perché tu sulle questioni croniche non è che tu c'hai la bacchetta magica. Se ci hai messo 50 anni a rovinarti una schiena, non è che gli al pronto soccorso da posto risolve questa però storia. Però scusa, sono d'accordo, avviene così. Però avviene pure un fatto, che non è che c'è sta un'altra struttura. Cioè, se io ho una crisi, una collica renale, sì, e avere un primo intervento, ma quello è giusto, non è che se io chiamo un medico, no, mi viene a casa. No, quello alla fine finisci che tu ti senti morire e parte al pronto soccorso. Va bene, pena, ma è pena giusto puntulina. Che viene una colica renale, intanto devi capire se è una colica, perché tu intanto c'hai un dolore. E quindi andiamo a capire se è una colica, perché non è detto che sia una colica. Cioè, quindi il pronto soccorso ha una sua funzione, ma è proprio questa, capire se è una colica o no. E no, se perché è una colica, si affollano pure così. Io, perché ne conosco più di uno, essendo uno che va in motorino, ho conosciuto più di uno cascati, si sono ruzzolati, si sono ammaccati, si è rotto il casco, però non si sono fatti niente. Però arriva l'ambulanza e se lo porta all'ospedale, e quello ci rimane 15 ore lì dentro. È quello che succede pure. Sì. Allora io dico, c'è la telefonata? Sì, pronto? Salve a tutti. Volevo toccare un aspetto del discorso, che io ho letto su Repubblica qualche settimana fa, un esponente della CGIL, no? Lui faceva capire che c'è anche un mercato dei letti, cioè nel senso che certi dottori, certi primari che agiscono nel privato poi preparano e programmano i ricoveri nel pubblico, e questa cosa qui diciamo che andrebbe pure sviscerata, no? Come anche il discorso delle sperimentazioni di farmaci e ausili medici, cioè c'è un certo numero di pazienti che si prestano a sperimentazioni, e queste sperimentazioni portano molti soldi agli ospedali, tipo Policlinico, San Filippo Neri, eccetera. Quindi sia le attrezzature sia letti vengono impegnati per fare anche un po' di profitto a beneficio dell'ospedale, quindi sperimentare farmaci, accontentare industrie farmaceutiche. Boh, adesso io, che una volta ho fatto un tirocinio in un grande ospedale, ho sentito parlare in chirurgia, dice, ma quella è parente di quello e c'ha a quel letto lì, insomma, ecco, volevo capire da chi è in studio se ne sa di questi meccanismi, se questo discorso è, diciamo, inerente, cioè è una cosa che andrebbe sviluppata, perché anche questo clientelismo diciamo provoca poi, no, i ricoveri dove non ci sono i letti, i pronto soccorso intasati, e poi diciamo i letti pubblici sono oggetto di mercato per profitti privati, clientele eccetera, è chiaro che poi i pronto soccorso rimangono intasati. Ecco, questo volevo chiedere, se è così o no. Ok, no, grazie, no. Adesso Peppe risponde. No, cioè io non ho toccato questo argomento, ma non è che non me lo sono dimenticato o che non ne volevo parlare. Volevo fare solo un quadro, insomma, della situazione generale, di quali sono le esigenze che una sanità vera si dovrebbe porre, e capire quali sono i problemi e come agire di questi. Dopodiché parliamo di perché non lo fa. E la cosa che diceva l'ascoltatore, non è così, ci sono anche un po' di profitto. Questo non è, e guardate che il Policlinico su questo è, diciamo, tutti questi meccanismi che diceva l'ascoltatore qua sono elevati all'ennesima potenza. Allora io vi dico chiaramente una cosa: ma voi pensate che una piazzetta, che praticamente tutto il Policlinico, che è una città con migliaia di medici e infermieri, voi pensate che non troverebbe il modo per sistemare 50 malati al giorno? No, da 12 anni non avrebbe risolto questo problema. Perché non si risolve questo problema? Perché? Perché il perché non è che c'è un Montalbano per capirlo. Il problema è questo, per quanto riguarda il Policlinico, è questo. Il Policlinico e comunque l'università è una fabbrica di cattedre. Tutta la sua attività, la linea guida che lo segue, dal rettore, che adesso ha piazzato tutti, dai figli, non so se sta procurandosi anche i piazzamenti per i nipoti e i pronipoti e lasciare questa eredità, ma tutta quanta l'intenzione, gran parte di quello che muove, lo stimolo che muove questo, è questo accaparramento, moltiplicazioni, diciamo, di cattedre, che vuol dire moltiplicazione di cattedre? Vuol dire moltiplicazione di reparti, in cui i letti si dividono, in cui praticamente su 30 letti ci stanno 4 cattedre. Che cosa succede con questa cosa qua? Che ovviamente tutti questi qua sono legati a doppio filo con attività private che esistono anche fuori, costituiscono del potere, perché poi quello dei cattedra c'ha i suoi sottoposti, poi i suoi sottoposti c'ha i suoi studenti, e studenti gli fanno da schiavi pure per le cliniche private, per tutte quante queste storie qui, e questi zompettano dalla parte pubblica alla parte privata, e quindi è chiaro che, diciamo, che una situazione del genere è, diciamo, incompatibile. Cioè il malato non sta al primo posto, cioè risolve quel problema che abbiamo noi, che avevamo da 12 anni, non è all'ordine del giorno. Cioè questi stanno a fare tutt'altre cose, la loro intenzione. Il pronto soccorso, per quanto storicamente al policlinico, ha rappresentato sempre il modo per togliersi le rogne assistenziali e poter alimentare i propri interessi, che sono mercati, che sono prestigio. Se tu diventi professore o cattedratico, ti danno la cattedra di quello o la cattedra di quell'altro, tu praticamente equivale esattamente al fatto che tu aumenti il tuo tariffario all'esterno, aumenti la tua richiamo, il tuo prestigio, ma questo si riflette automaticamente nel tuo tariffario privato che tu poi vai a gestire fuori, e questo funziona così, con le comparsate televisive, con tutte quante queste storie. Quindi questo praticamente è il quadro delle cose. Allora, chi eroga questi soldi, no? Chi eroga questi soldi? Perché praticamente la regione che ti dice: io a te università, siccome tu mi fai queste prestazioni, ti do i soldi, che ha fatto? Ha detto: oh, fermatevi un attimo, perché qui non ve si regge più a voi. Cioè noi facciamo 150 milioni di debito l'anno, eh? Allora, ha fatto questo? No, questi soldi apparecchiati pure loro, e se sono spartiti in queste forme, sono entrate pure loro nella il gestione. Banchetto, bravo. Ecco, questa è stata la situazione. Quindi, cioè, e non c'è verso, eh. Cioè, questi, calcolate che l'università, cioè, è una corporazione che nasce dall'Ottocento. Questi sono trasversali, non gliene frega niente, hanno passato tutto, fascismo, cosa, 68, 77, 90, questi sono Allora, vi dico una cosa, il Policlinico è stato praticamente per limitare questa storia, perché qualcuno ci ha pensato ogni tanto per dire: oh, limitiamo. Sono nate due costole, una prima del 90, quando è stato fatto il Pertini. Il Pertini nasce per tirare fuori dal Policlinico tutti gli ospedalieri che c'erano, che erano state fatte le lotte del 70, e metterli a un altro ospedale, così se potevano allargare. Quindi sono nati gli ospedalieri, e lì c'è stata fatta la grande truffa con i 320 primariati, che la regione ha approvato senza nessuna cosa, e quindi praticamente sono andati là. Quando praticamente poi l'unico ospedale al mondo, una quindicina d'anni dopo, è stato commissariato, non solo commissariato, ma è stato messo sotto sequestro da Amendola negli anni 90, e dopo praticamente è stato commissariato e si è dichiarato fallimento, si è fatto un'altra costola, che è il Sant'Andrea, e metà sono andati là. Ma questi si sono riprodotti automaticamente, l'ha detto, cioè invece di ridimensionare, hanno praticamente moltiplicato i tentacoli. È bravo. Allora tu ti trovi di fronte a una situazione come questa. Ve chiedete perché dentro questa storia la piazzetta non gliene frega niente a nessuno, salvo a chi ci sta là dentro. Cioè questi ti dicono: non è un problema mio, io ho i cazzi miei da fare sulle altre cose. Non, quando poi si riducono gli spazi, perché i soldi pubblici, la vacca te dà un po' meno soldi, te dà. Quindi tu che cosa riduci? Riduci i tuoi interessi e accogli i pazienti? No, tu i pazienti praticamente li lasci sempre là, e cerchi di mantenere i tuoi interessi, anzi li fai ancora aumentare di più, dentro una situazione che è ancora più critica. Questo fatto che è avvenuto per il Policlinico in tutti questi anni e sta avvenendo negli altri ospedali, per cui praticamente tutte queste storie che sono andate avanti, questi intrecci col privato, queste storie, di cui praticamente questa è un'altra cosa da dire, qui dentro non si è mosso niente, perché i vostri letti privati a Roma sono detenuti in maniera assolutamente equanime tra tutte e due schieramenti, cioè ci stanno le cordate democristiane e c'erano quelle del PC con il spallone e con... questi praticamente hanno bloccato tutto, cioè non... però fin quando stavi in crescita che facevi i debiti e ogni fine anno ti facevano la leggina finanziaria e ti ripianavano i debiti, che cazzo te ne fregava? Andava tutto bene. Allora... quando praticamente c'è stato un restringimento delle storie è zompato tutto il banco, perché... e sta zompando il banco, perché praticamente non si regge più questo sistema. Si è arrivato a miliardo di debito e continua a farli i debiti, ma perché con questo sistema tu li farai i debiti, cioè non c'è modo di uscirne fuori, anche perché tu non puoi pensare che tu rispondi a tutto a popolazione romana facendo solo posti letto o aumentando. Questi già stanno a ridire che praticamente per risolvere questa strada devono convenzionarsi con altre cliniche, con storie, cioè... questa è la soluzione che te danno, no? Allora Peppe, a me mi sembra che questo sia però un punto cruciale, no? Nel senso che noi sappiamo che meno funziona il pubblico, o meno si vuole far funzionare il pubblico, e più ci si rivolge al privato, alle convenzioni e quanto altro, no? Allora, quello che succede nella sanità, come tu stai illustrando, io posso dirti che è allargato un po' in tutti i settori pubblici, dall'ente locale, con le opere pubbliche, insomma tutto ciò che... perché? Perché ovviamente c'è un'aggressione verso il pubblico. Ora la sanità è uno dei pochi pilastri rimasti, no? Che fino ad oggi non sono riusciti ancora a smantellare come servizio sanitario. Ma te posso nazionale. Dire un appunto su questo? La sanità, i pronto soccorsi rispetto al panorama della sanità rappresentano ancora di più il pubblico per diversi motivi. Uno, perché la gente che sta a lavorare al pronto soccorso, siccome è l'anello debole della catena, quindi in genere è gente in genere motivata, che gli piace da fare quel lavoro, che non fa carriera. Con i pronto soccorsi non si fa carriera, perché se la carriera da noi si fa dentro le cliniche, ma se no gli altri se le fanno facendosi i reparti, quindi praticamente è un po' il ghetto là dentro. E questa storia che viene caricato tutto là sopra, perché gli altri, non è un caso, perché te la scaricano tutta a te? Perché, quindi, in questo attacco al pubblico, e ti dico, su certe storie, il massimo della produttività, se la vogliamo chiamare così, o dell'efficienza, sta proprio dentro i pronto soccorsi. Perché comunque tu sei stato obbligato a organizzarti per far fronte a storie anche in condizioni che tu non potevi riuscire, cioè che non ti danno niente, non ti danno la roba, non ti danno il personale. Ma voi vi siete chiesti perché i precari stanno tutti là? Certo. Perché i precari stanno tutti dentro i pronto soccorsi e dentro da noi le cliniche non ci stanno, dentro gli altri reparti? Cioè, oppure dove stanno? Stanno lì, stanno nei reparti di rianimazione, cioè nei reparti cruciali. Perché? Perché quando tu mi dici questo attacco al pubblico, purtroppo offriamo come pubblico molto fianco, no, perché questo sistema qua ha corrotto profondamente tutto quanto. Poi si chiede Ettore perché perché? Peppe, siamo completamente d'accordo. Il problema è che, pur avendo capito come stanno le cose, avallare, no? Il fatto che il pubblico non funziona, la sanità è allo sfascio, piena di debiti, io ho il timore, come spesso è accaduto, no? Che fatta questa premessa uno dica, allora se non funziona, se è corrotto, se eccetera eccetera, privatizziamo anche questa, mentre la nostra risposta ovviamente non può essere questa. Uno deve dire fermi tutti, noi dobbiamo capire perché non funziona, no? E intervenire per levare il bubone che non fa funzionare. E siccome sappiamo benissimo il perché non funziona, tu l'hai già illustrato in gran parte, ossia che ci sono interessi forti, le cosiddette baronie, le cattedre, il clientelismo, la compartecipazione anche politica e partitica nella spartizione delle convenzioni e tutto il resto. E questo è il vero bubbone, no? Per non parlare poi della questione dei farmaci, delle case farmaceutiche, perché solo oggi da poco si è arrivati al fatto che il medico generico di famiglia adesso non ti prescrive più il medicinale, come dire, di marca, ti dà il generico, no? Che costava molto meno, costa guarda molto che questo meno. È il problema ancora allora, un altro, spiegalo, ecco, questa è un'altra storia che bisogna pure capire un attimo come. Allora guardate, quando sono entrato a lavorare io, cioè 35 anni fa dentro questo ospedale, e dentro gli ospedali il farmacista, la farmacia dell'ospedale era quella che ti dava i farmaci che tu gli chiedevi, ok? Oggi in tutto il mondo, diciamo tra virgolette avanzato, il ruolo del farmacista non è più quello che ti dai farmaci, almeno non dovrebbe essere quello, ma è quello di difenderti dalle multinazionali farmaceutiche che hanno i soldi per fare la ricerca, che ti portano gli studi loro, che ti dicono questo serve a questo, che quello serve a quell'altro, e di cui solo loro hanno questa conoscenza, fra l'altro, perché tu, essendo pubblico, chi è stato intelligente, chi ha voluto lavorare su queste cose, negli stati, che ha fatto? Ha cercato di creare un pool di gente che era in grado di sostenere il confronto con questi, perché se no questi ti mandano per stracci, perché se ti dicono che è uscito fuori l'ultimo ritrovato e te lo mettono a 2 milioni a fialetta, perché questo succede, e però è questo, c'ha un fattore superiore, tu quali mezzi c'hai per dire è vero, non è vero, è così. Quindi oggi il farmacista dovrebbe essere quello che cerca di difendersi dall'attacco di queste cose che vanno a mungere la vacca. È questo il problema essenziale, cioè capire effettivamente quello che serve o quello che non serve, perché se no te mandano proprio per stracci, perché oggi come oggi è cambiata sta sanità, no? Prima non si faceva, oggi è pure giusto, tu devi fare una serie, il meglio che c'è, perché ormai devi garantire il meglio che c'è, ma costa una cifra, però tu devi capire, devi scegliere quello che effettivamente lo fai perché serve, o quello che tu sei in grado di capire, no, non faccio questo. Allora, per far questo bisognerebbe collegarsi a tutti gli studi internazionali, a tutte. Voi immaginate dentro sti baracconi come può funzionare, come tu puoi fare quello che è stato messo perché è parente di quello, perché è cognato di quello, perché ha fatto quello lì, questi dovrebbero contrastare. La ipotesi più normale è che ci vengano a patti con questi, no? E c'è piena stecca pure loro. Perché il sistema ti porta a questo, cioè. Per rompere questo sistema, Peppe, io mi viene, come al solito faccio sempre provocazioni in senso generale. C'è Emergency che cura i malati nelle peggiori condizioni, in mezzo alle guerre. Spende molto meno di quello che si spende in queste zone e dà un servizio migliore. Sì. Allora, dato che qui tutto il privato, benissimo, perché non diamo almeno 2 pronto soccorso a Roma? O rioccupando quei 2 ospedali che hanno chiuso, Regina Elena e il San Giacomo, e gli danno in gestione a Emergency, così si mettono in competizione, dato che vogliono la liberalizzazione, perché sono più sicuro, più convinto che gente con quel tipo di cultura della sanità che Emergency ha sviluppato, no? Farebbe funzionare meglio il servizio. Il problema è che tu a Emergency non gli devi dare i pronto soccorsi, perché se gli dai solo i pronto soccorsi, quelli stanno a pezzi. Perché una volta che tu hai fatto quello che dovevi fare, ma andi metti sti malati? Questo è il problema. Quindi tu al limite gli dovresti far garantire un sistema sanitario che tende a quello. No, io dico, cioè, dare il problema oggi sostanzialmente non è nei pronto soccorsi, cioè il problema dei pronto soccorsi sta fuori, il problema, perché tu quelli li puoi ristrutturare. E guardate che io vi dico, l'elemento più innovativo in tutta Roma, cioè se c'è qualche, chiama una telefonata però, sì, vai. pronto, buongiorno. Sono Irma. Dimmi. Niente, volevo intervenire su questo problema, perché lì a Tor Bella Monaca c'è Medicina Solidale delle Migrazioni, che faceva un po' da, come si diceva, da per non ingolfare praticamente il pronto soccorso di Tor Vergata, arginava tutte le visite sia de persone, insomma, immigrate, ma anche italiane. E praticamente questo problema qui, cioè, si è creato praticamente un attacco contro questa medicina solidale che si è spostata dalla Chiesa, che medicina solidale delle migrazioni è praticamente un servizio pubblico che viene fatto da Tor Vergata, però non avendo un posto all'interno del territorio trovarono questi locali nel 2004 all'interno della chiesa, sempre in via provvisoria. Praticamente adesso da gennaio è uscita dalla chiesa, perché praticamente è stata cacciata, insomma, dalla chiesa, e si è spostata a via Aspertini, e lì si è scaturito tutto il putiferio da parte del PD, API e Italia dei Valori, dicendo che praticamente curando malattie infettive, HIV, tutte queste cose qui, non dava la sicurezza né nei locali dove si era messa e né all'interno del territorio, ma doveva andare all'interno del policlinico, cioè di Tor Vergata. Cioè, siamo proprio, capito, se questa è la politica, no? Che te fa capire che è un ambulatorio che serve migliaia di immigrati, migliaia di bambini con neuropsichiatria lì di Tor Bella Monaca, e stanno chiedendo veramente che questo servizio venga messo lì, no? Perché così vengono serviti meglio, nascondendo dietro praticamente tutta la strumentalizzazione del razzismo, credo, del posto che dice che era stato dato al 118. Vabbè, adesso ho fatto un racconto un po' così sbrigativo, riassuntivo, però è una storia che se uno va a leggere su Paese Sera, da gennaio ad oggi c'è tutta la storia, anche su Articolo 21. Comunque io volevo dire che rispetto a questa, alla storia dei pronto soccorsi, perché stando, cioè, con medicina solidale, io mi sono resa conto che invece avere un ambulatorio, io ho fatto anche un intervento proprio su Paese dicendo questo, che invece di potenziare questi poliambulatori all'interno dei territori, affinché la gente possa avere, perché quello funziona dalla mattina, 12 ore al giorno, è aperto a qualsiasi ora, uno va lì, quindi anche un codice bianco non va al pronto soccorso, ma va lì al poliambulatorio. E questi poliambulatori che sono stati sistematicamente tolti quasi in tutti i quartieri, addirittura sono stati chiusi anche il poliambulatorio nelle ASL, e la gente poi per prendere una visita, come si dice, specialistica, passano i mesi e allora vanno al pronto soccorso. Ecco perché c'è questo ingolfamento. E comunque io dicevo che per risolvere il problema dei pronto soccorsi è creare proprio delle strutture territoriali e anche creando infermieri di quartiere, cioè che vanno dalle persone praticamente che quelle, insomma, con patologie gravi, in maniera che si crea tutta una rete tra l'ammalato, il medico di famiglia e l'ospedale, e non si vanno a ingolfare questi pronto soccorsi, perché come diceva il compagno prima, c'è gente magari per una sciatalgia o una cosa va a pronto soccorso, perché tu il medico non è che ce l'hai 24 ore su 24, fino alle 8 lo puoi chiamare se viene, ma dopo c'è la guardia medica. E comunque fa degli orari, o c'è la mattina o c'è il pomeriggio. Ecco perché non è che dice sì, ci stanno patologie e vai dal tuo medico curante, però non sempre è possibile questo. Mentre invece creando questi servizi territoriali, polifunzionali, sì, io penso che prima di tutto, perché qui stanno facendo, si vede la politica che fanno, è quella proprio di rendere. Cominciano ad attaccare che non funziona quello, non funziona, per poi privatizzare, perché è chiaro, allora esce il fannullone, esce quello. Certo, ci stanno i casi di come si dice, deruberie, ma inizia proprio, come hai detto il compagno, è trasversale questa cosa, perché sulla sanità, come diceva anche Ettore de Ginostrada, cioè de Emergency, allora lui ha fatto proprio un intervento lì a servizio pubblico dicendo che lui una valvola mitralica la paga 1500 euro, no? Mentre invece all'ospedale costa 10.000 euro. Allora è questo pure il problema, capito? La gestione non è perché va male, perché è pubblica una cosa. No, va male perché ci stanno le ruberie. Allora noi come cittadini dobbiamo invece chiedere prima di tutto i servizi territoriali che vengono ripristinati, e addirittura stanno stanno attaccando anche i consultori, stanno eliminando i consultori per le donne, dove poi lì ci vanno anche molte donne immigrate, per esempio lì al Pigneto, no? Stanno togliendo il consultorio, quello della via Casilina, e quella e tanti altri consultori. È un attacco sempre alle fasce più deboli. Vabbè, penso di aver detto tutto. Comunque questa cosa qui di medicina solidale è una vergogna. Cioè lì c'è nel territorio di Torbella Monaca, con tutto quello che c'è da fare, da dare, questi si stanno attaccati al fumo della pipa della struttura, capito? Ma si dovrebbero proprio vergognare. E comunque, ripeto, bisogna, come si dice, aumentare questi poliambulatori territoriali. E forse per quanto riguarda, e poi la colpa è anche del taglio dei posti letto, che ci sono stati proprio per le persone con gravi patologie, perché dice te li devi tenere a casa, ok, però dammi tutto, cioè tutte le strutture, tutte le possibilità di tenere un ammalato d'Alzheimer grave che è a casa, o no? Ciao. Ciao, grazie Irma. No, ma questo avviene perché pure le cliniche per i malati terminali, no? Adesso stanno sempre diminuendo, al massimo ti fanno un'assistenza domiciliare per quello che può essere utile, ma tu mollano a casa perché no, poi... è un problema d'organizzazione, io... Ecco, la provocazione di Gino Strada, intendevo dire proprio questo, aprire degli ospedali gestiti diversamente, in modo che si apre, ma non solo come pronto soccorso, ma proprio come attività ospedaliera. L'attività, ti ho detto, l'attività, cioè il sistema sanitario è un sistema, si chiama sistema, perché non può essere legato all'ospedalizzazione, cioè la risposta non può essere sempre l'ospedalizzazione, tu devi rispondere diversamente, anche perché vai verso una società che ti chiede questo, cioè non puoi pensare che tu ricovererai in futuro tutti gli Alzheimer. Se l'età ormai sono 86 anni, ma è chiaro che tu ci avrai il 20% delle persone che ha Alzheimer, ma come gestisci uno con Alzheimer a casa? Li ricoveri tutti? Noi gli demo, cioè non è insostenibile. Questa è come la storia dei rifiuti, no? Ma tu puoi pensare che il tubo continua ancora a fare un buco e metterci dentro la roba? Se, può essere questa la risposta? Quella da apriarti le discariche oppure i bruci? Cioè, non può essere questa la risposta. E quindi tu andrai verso il collasso. Ora, il problema è questo, secondo me, sostanziale. È possibile che questo sistema si autoriformi? Cioè, che vada da un'altra parte? Perché... cioè questo deve fare, tu devi cambiare proprio l'ottica di queste come porti. E i problemi stanno dalla valvola mitralica che dice, perché questo c'è dentro gli ospedali, è vero che è così, è vero sti centri di costo, queste cose, ma se noi andiamo a vedere, cioè ci abbiamo oggi sta politica che tra virgolette è in vacanza. Io voglio fare un esempio, cioè non è perché... Ma è possibile che in questa situazione devono venire i banchieri, sono gli unici che riescano a far pagare uno straccio di a chiesa, perché quest'altro sono tutti paralizzati, quell'altro li fa, oltre tutte le altre cose, voglio dire, no? Poi te mazzolano da tutte le parti, però oggi tu c'hai una politica proprio che non c'è, cioè su queste cose, ma chi vai a chiamare? Allora, mo è venuto Marino, no? Allora, io personalmente Marino l'ho invitato a venire anni fa, eccetera, proprio per dire, cioè questa è la situazione, è inutile che cioè, abbiamo in tutti i modi cercato di tirarla fuori noi sta storia qua, sta cosa non te sei filato nessuno, cioè non c'è stato un politico, una forza, qualcuno che ti ha detto oh, andiamo a scoperchi a qualche cartarino almeno di questi, e non ci stanno queste cose. Pronto? Pronto? Sì, sei in onda. Allora, grazie per questa trasmissione, grazie a Peppe, grazie a tutti voi. Io volevo semplicemente dire una cosa riguardante la piega che sta prendendo Peppe sull'alternativa alla vita, che poi praticamente sarebbe la rivoluzione. Io credo che se oggi tu non parti da sta cosa concreta, e quindi quello che la provocazione faceva Vettel, a me mi sembra una provocazione concretissima, nel senso che se noi avessimo la forza di poter far funzionare in maniera alternativa l'ospedale, poi è chiaro che la coscienza si va man mano sedimentando e quindi poi i problemi diventano da espandere a tutto il sistema, però devi partire dalle cose concretissime. Quindi oggi la gente, se sta in piazzetta, vuole un'alternativa. Se tu gli puoi dare un'alternativa rispetto a questo, sei in grado di creare anche un'alternativa rispetto al sistema, altrimenti non vale, fai solo un chiacchierone. Tutto qua? Capito? No, capito. Sì, abbiamo capito. Daniel, okay. C'è ragione. Perché se tu vedi la storia nostra, la storia del policlinico, noi appunto, io l'altra volta discutendo con Ettore, dicevo, un corteo degli studenti del 68-69, che avevamo circondato la macchina di Moro che si veniva a visitare in seconda clinica medica, da Cassano allora era, e lo slogan era: da oggi nei cessi mettiamoci Aldo Moro. Perché? Perché ci stava allora le aspanterie, non erano i pronto soccorsi, che erano stracolmi dei malati nelle stesse condizioni, e siccome le cliniche dei baroni, dei grandi illustri professoroni, che addirittura avevano anche i reparti a pagamento, non li ricoveravano, li lasciavano nei cessi. Quindi noi andavamo come studenti, pigliavamo, rapriamo i reparti a pagamento e ci portavamo, ciclicamente ci portavamo i malati che stavano nei cessi della stanteria. Ma io parlo del 68, del 69, del 70, tutti gli anni 70. Quindi di questa situazione poi la trasformazione, la realtà, qual è stata? Quello che ci abbiamo adesso. Quindi non siamo riusciti rispetto a questo a rappresentare un'alternativa, anche se i compagni tipo Peppe poi si sono massacrati, il punto di pronto soccorso Graziella con la neuroinfantile, oppure Tonino con l'emergenza, eccetera. Beh, rispetto a queste situazioni, tu non sei in grado oggi di evitare che ci siano speculazioni, addirittura si rischia di dare spazio, per esempio adesso, alla privatizzazione dell'ambulanza, all'altre ulteriori privatizzazioni. Invece se tu riuscissi, per esempio con Emergency, che ha rappresentato effettivamente un'alternativa mondiale rispetto a una cosa del genere, a raccogliere delle adesioni per far funzionare un sistema sanitario che è al di fuori della speculazione, rappresenti un minimo di funzionamento che può portare talmente chiara la coscienza alla gente: o si cambia o affanculo, qua bisogna assolutamente assaltare questo tipo di baronie, questo tipo di sistemi clientelari, cosa che normalmente non puoi fare partendo da zero. Peppe, quante volte hai messo le tende davanti al pronto soccorso e poi non sei riusciti ad arrivare a una soluzione concreta? Però chiedite perché. Che perché non, uno non ci riesce? Ma tu pensi che se io avevo la forza di portare tutta la gente, perché la prima cosa che dovevo fare lì è andare sotto al rettorato? Certo. No, perché c'è, parte dalla storia. Allora, se questo non ci riesce, è perché c'è un tessuto sociale che su queste cose non ci sta, non gliela fai. Cioè, praticamente tu devi riuscire. Loro hanno agito col discorso della corruzione. Cioè, cosa hanno fatto alla fine? Hanno cercato, nello stesso personale che era tutto incazzato, che era cosciente, che sapeva cosa significava la medicina vera, la medicina, diciamo, preventiva, la medicina che andava a eliminare tutte le baronie, l'hanno corrotta. E per cui alla fine neanche più queste persone che erano, diciamo, ultra convinte si sono più mosse. E quindi tu su questo hai creato nuovamente una situazione di arresa. Invece se tu riuscissi a portare avanti adesso una struttura, appunto ti ho detto, in maniera rivoluzionaria, perché mettere, per esempio, la gestione del San Giacomo, diceva Ettore del San Giacomo, in maniera alternativa, in cui appunto ci stanno gli infermieri che non fanno il doppio lavoro, i medici che lavorano solo nell'ospedale, una struttura che è realmente funzionale appunto alla sanità e quindi anche al discorso della prevenzione, tu gli sballi, gli togli proprio la possibilità di fare manovre, di fare operazioni di questo genere, privatizzare, se tu invece non c'hai un punto di riferimento, questi, hai capito, c'hanno sempre ruota libera, te hanno fatto così, quelle due parole giustissime, incazzate, formichi, poi con la testa di cazzo, non capendo poi niente, non ti ha più ripreso, e quindi anche quella cosa là, la tua, sembrava quasi un avallo a finalizzare, a funzionare nuovamente sulla privatizzazione, perché col pubblico non si poteva andare avanti. Ma no, questo non credo che, cioè, il problema della privatizzazione, l'opzione, diciamo, privatistica, secondo me non è il fatto perché tu non ribadisci che la sanità non può essere altro che pubblica. L'opzione privatistica, diciamo, c'è nell'andamento di questo tipo di società. Tu devi togliere i presupposti perché questa diventi un'opzione o l'unica opzione che loro ti danno. Ma per fare questo, tu, se non altro, devi avere una base sociale che è disposta a questo, che crede in questo. Purtroppo questa base sociale non ce l'hai, sì, non c'è adesso. Abbiamo occupato, per esempio, per la 194, abbiamo occupato il reparto a pagamento di valle. Ho capito, Daniele, ma tu stai parlando di un mondo che non c'è più, non esiste più. Se tu entri oggi dentro un posto di lavoro, ritornare alla gente, se non si rende conto che solo questo può essere la soluzione, si rende conto. Non c'è un cazzo da fare. Ho capito, grazie. Se non si rende conto, però se ti rendi conto, allora tutti, grazie per avermi fatto parlare. No, io, cioè, con Daniele, cioè. No, perché sta storia con Daniele va avanti da parecchio, perché lui mi dice sempre, no? Lui c'ha la fissa, giustamente, di facciamo un reparto dei compagni e funzioniamo in maniera alternativa. Magari, ma adesso c'è la variante emergency e vabbè. Non sembra niente, la variante emergency, quella che è riuscita a cambiare sanità nel mondo, sta cambiando sanità nel mondo. Daniele, io con emergency ci ho fatto iniziativa, ho portato dentro al policlinico, e se volemo dirla tutta, in perfetta solitudine, perché magari non è manco stata una cosa così apprezzata, perché era sembrata un'intrusione di qualcuno di fuori. Capiamo se bene sulle storie, no? Quindi io emergenza ho capito. Queste storie. Non mi parlate sopra, perché sennò non otteniamo nessun risultato e continuiamo a parlarci addosso e continuiamo a gridare allarme e poi non riusciamo a fare nulla di concreto. Invece quando c'è una cosa concreta e c'è una possibilità di appoggiarla al massimo, bisogna realizzarla e poi là vedi come puoi continuare ad estenderla. Ma guarda che io auspico che questo possa avvenire. Vabbè, certo, però, scusa Peppe, non è che glielo puoi dare sulle spalle la croce di Peppe. C'è un movimento attaccato, Daniele. Ma guardate, c'è un movimento che se ne deve far carico. Allora, guarda, io penso un'altra cosa. Se andiamo un po' più a fondo, un discorso, diciamo, forse un po' più politico, no? Io te dico questo. Allora, personalmente, io a un certo punto della mia vita politica, dopo aver fatto tutte quelle cose con Daniele, e ambulatori, e storie, e portare i malati da una parte e da un'altra, tutta quanta questa cosa, che era nelle cose perché vivevi un clima, comunque una cosa, in cui tu dicevi, io ho un'altra visione di come funzionano le cose e la porto avanti, e quindi faccio queste cose e mi metto in crisi su questa storia qua. Dopodiché, questo periodo è passato, cioè tu non c'hai avuto più questa possibilità di farlo, no perché ne volevi più fa te, perché non eri più in grado di farlo, dovevi partire da altri presupposti, da un tessuto che era cambiato, da una società che stava cambiando e che stava cambiando i comportamenti profondi delle singole persone, i valori, il modo di credere in queste cose. Ritrovare a questo punto, ho detto io, a questo livello non sono più in grado di fare una politica tra virgolette ideologica solamente su una cosa che mi rimane solo da me, e sono tornato a lavorare nel punto più basso, cioè al pronto soccorso dove stanno gli ultimi, dove non ci vanno a lavorare nessuno, proprio per ricominciare prima un atteggiamento già sociale del lavoratore per capire quello che cazzo stava succedendo, e quindi praticamente sono partito da lì, e da lì ti dico, no, le prime cose che abbiamo fatto sono proprio in questo senso, cioè ritrovare un tessuto sociale che non doveva prescindere dal fatto dei compagni o dei solo compagni, perché così non vai da nessuna parte. Questo era il discorso, devi ricostruire, e probabilmente pure strade diverse, strade che t'andavano. È chiaro che poi dici, abbiamo una telefonata. Pronto? Sì, sì, pronto. Pronto, buongiorno. Sei in onda, dici. Senti, io voglio dire una cosa, è quello di costruire insomma il tessuto sociale è sicuramente una cosa positiva. Il problema è che qui non ci stanno i presupposti. Punto primo, c'è il disinteresse in generale dell'opinione pubblica su certi temi, non tanto un disinteresse, un poco impegno. E poi soprattutto da parte dei lavoratori non c'è una mobilitazione, perché ritorniamo sempre al solito discorso, qui abbiamo un mondo del lavoro ormai frazionato, precario. Sappiamo benissimo che interi reparti del policlinico vengono mandati avanti tramite infermieri delle cooperative, OSA per esempio, una delle più grandi che ci stanno lì dentro. Quindi questi lavoratori come prendiamo? Come possiamo pretendere che la coscienza ce l'hanno, ma non hanno il coraggio di muoversi? Perché? Perché stanno in condizioni di ricatto, sottopagati. Sappiamo che dentro a queste cooperative sei un socio lavoratore, quindi non sei neanche coperto da articolo 18, tanto per tornare a un tema di attualità. Quindi non avendo queste tutele, sta gente è succube. Ma voi vi pensate un infermiere di una cooperativa che si ribelli magari insieme ad altri infermieri precari a un barone del policlinico? Cioè, siamo proprio fuori da qualsiasi immaginario, questo è. Quindi se non c'è, non ci stanno proprio i presupposti. Da una parte c'è un'opinione pubblica che legge ste cazzate che scrivono, quella in coma legata, ma se in coma che senso c'ha legarla, fra l'altro? Vabbè, comunque. E se sta dietro a queste cose, quindi la gente è poco informata, poco impegnata sul sociale, e dall'altra parte c'è i lavoratori che sono facilmente, la maggior parte sono facilmente ricattabili. Di fronte a un sistema, come avete detto voi, schiacciato da baronie, politica, potere, scambi dei favori, dei sordi, quello e quell'altro, voi pensate, quattro infermieri, un po' del personale del policlinico che si organizza precario contro una determinata struttura. E qui se non c'è proprio una forza collettiva che appoggia pure questi lavoratori, ma come si pensa ad affrontare un problema del genere? Io mi rivolgevo al movimento generale su Roma. Il problema è proprio della società, oggi viviamo in una società proprio individualista, e questo ci ha portato lo sfracello su tutti i fronti, sul fronte del lavoro, sul fronte dei servizi pubblici, sul fronte dell'assistenza sociale, su tutti i fronti. Qui è proprio il problema di fondo, è un problema proprio psicologico della gente, perché hanno, chi sta sopra di noi ha creato una società sulla quale ha fissato dei presupposti, che sono quelli dell'individualismo. Quello che diceva Daniele, erano bei tempi, ma in quei tempi l'individualismo era molto più sottile, c'era una coscienza collettiva. Oggi invece hanno puntato tutto su questo, ecco, cioè ti danno le stronzate in mano, c'è il cellulare, sei libero perché c'è il cellulare, perché c'è la bella macchina, perché c'è le stronzate, però poi nel frattempo ti distruggono la scuola, ti distruggono la sanità, ti distruggono i servizi pubblici e tu manco te ne accorgi perché in mano c'è il cellulare, hai capito quello che voglio dire? Sì, sì, no, ma il problema di fondo è questo, è questo. Poi lasciamo, giustamente poi chi sta in alto pilota tutto questo, no? Perché giustamente lui ha i suoi interessi nel pilotare tutto, e quindi è proprio di fondo a tutti questi problemi c'è sta sempre quello, che è quello proprio di una manipolazione sociale e di un individualismo che ormai straripa da tutte le parti. Se non si cambia questa tendenza, la cosa è difficilissima. Sì. Anzi, quasi per certi versi uno si rassegna pure alla fine, perché insomma uno forse ce le mette in tutte le maniere, però hanno creato ormai, hanno fissato dei presupposti che adesso sono difficili a distanza di anni di scardinare totalmente, capito? Sì. Va bene, ma non ci scoraggiamo, noi insistiamo. Ti ringraziamo dell'intervento. Io personalmente sono d'accordo con Peppe e con chi ha parlato adesso, cioè che qui c'è una situazione generalizzata. Non dimentichiamoci che il movimento rivoluzionario antagonista è uscito da una sconfitta terribile. Cioè, ogni tanto ci dimentichiamo che tutto quello che è accaduto dagli anni 70 in poi, no? Ma qui sono successe cose epocali, è crollato tutto il blocco dell'est, si è trasformato il PC italiano, no? Oggi è diventato PD, come è cambiato il ruolo dei sindacati che oggi stanno lì appunto e che sono responsabili spesso e volentieri di quello che accade nei posti di lavoro, che non contrastano le baronie, anzi sono, come dire, il lungo braccio, no? Dei partiti politici. Quindi è evidente che il discorso va ripreso in termini generali. È quello che con Serafino, per esempio, le ultime trasmissioni stavamo cercando di rimettere un po' all'ordine del giorno, perché non basta dire famo le lotte, perché poi vediamo che, insomma, se non c'è una rispondenza, no, da parte della base sociale, anche dei lavoratori, c'è una corruzione ormai capillarizzata, un clientelismo micidiale con cui hanno occupato i posti di lavoro, i posti di comando, eccetera, e ovviamente è difficile uscirne. C'è una telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Sei in onda, dici. Abbiate pazienza perché ho sentito pochissimo di questa trasmissione, però su queste valutazioni circa l'indisponibilità sociale a un conflitto su problematiche come queste, io mi permetterei di dissentire, nel senso che non è vero che manca questo tipo di disponibilità, manca una capacità della soggettività di stare nei territori. Quando sono state evocate le grandi cose del passato del Policlinico, dalle aulette occupate a 194, addirittura la arcaica antica lotta del 73-74, eccetera, eccetera, quel nucleo d'avanguardia, eccetera, del Policlinico, che peraltro in quel periodo era sostanzialmente egemone all'interno del posto di lavoro, poteva comunque contare su un tessuto diffuso a livello cittadino delle situazioni che facevano altre cose, che erano presenti e potevano portare questo tipo di problematiche dentro la città. E a partire dalla metà degli anni 90 a oggi questa situazione è totalmente cambiata, nel senso che l'assetto organizzativo dentro cui era inserita la realtà dei lavoratori del Policlinico e di altre cose ha assunto una caratteristica diversa, cioè chiaramente quella è una struttura di carattere sindacale che ha potuto fare cose egregie in alcuni casi e invece si è dimostrata totalmente insufficienti, come è normale che sia, in tutti gli altri. Quindi la questione è appunto questa. Oggi non è che personalmente vivo in situazioni in cui conflitti territoriali, e in questi conflitti territoriali ho a che fare con compagni pochi e con cosiddette persone normali tante, che sono disponibili a mobilitarsi su appunto problematiche connesse simili a queste. Quindi quello che manca è questo, cioè quello che va ricostruito a livello, appunto, non è tanto richiamarsi al fatto che ci sta i processi di alienazione globali sono passati, c'è una sconfitta, questo elogio delle sconfitte o altro, poi tanto più in presenza, mo vabbè, la storia da DAV, l'acqua santiera dentro cui stanno a tigne tutti quanti le dita per assorbirci tutti quanti, però pure quello è indicativo, no? Cioè, non è che mancano le possibilità di mobilitarsi nei territori, manca il progetto, manca l'ottica, va ricostruita queste cose, ma manca perché è stata scientemente abbandonata, è stata fatta una scelta di separazione appunto nei posti di lavoro con chiaramente quella scelta di organizzazione sindacale nei territori, con l'abbandono totale di quest'ottica dentro una valutazione generale di fase che probabilmente non è azzeccata. Non è che viviamo dentro la fase splendente e trionfante del capitalismo, mi pare, quindi ci sarebbero questo tipo, quindi va ricostruito questo dato, cioè sostenere chi all'interno dei posti di lavoro c'ha assolve una funzione di carattere più generale e che quindi non è legato strettamente ed esclusivamente alla questione del rapporto tra prestazione e salario. Questa cosa non è che può essere fatta astratto, deve vivere sulle gambe di qualcuno e va identificato il qualcuno, Sulle soluzioni emergency o altro, mi pare che siamo proprio alla follia, insomma, no? Che è? Andiamo a cercare qualche altro osservatore da qualche parte nel trovarsi i processi di privatizzazione. Quello che va è ovviamente ricostruire un tessuto che è capace di controllare le cose, che c'è sta nei territori, che appunto, che a partire dai grandi casini che viviamo quotidianamente è in grado di costruire conflitti e vertenze, dentro cui la questione sanitaria è una questione universale, insomma, no, ci riguarda tutti e in ogni momento. Però poi di fatto non si riesce più, perché non c'è neanche un posto dove si potremmo guardare. Dice, ho questo tipo di problema, c'è questa questione, su questa cosa si può fare un investimento collettivo. Non esiste un posto dove andiamo a discutere questa storia, a parte appunto domenica mattina al bar di Vecchietti, insomma, no? Salute. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Senti, no, volevo dire pochissime cose. Dunque, noi oggi siamo partiti da un problema che abbiamo definito, Peppa ha definito strategico, le questioni della sanità. Però noi, anche cosa che abbiamo fatto nelle settimane precedenti, nelle domeniche precedenti, noi possiamo partire da qualsiasi argomento di carattere strategico, di portata nazionale, che può andare dalla sanità, così come abbiamo fatto oggi, alla scuola, ai temi dell'energia, ai temi dei trasporti, tutte questioni che riguardano poi non solo posti di lavoro, lavoratori, ma che riguardano poi un'intera collettività. Torna comunque sempre, qualsiasi argomento affrontiamo, un tormentone, che è il tormentone politico. Un tormentone politico che noi non possiamo, come dire, mai allontanare dal nostro orizzonte. Lo accennava adesso Roberto. Cioè il tormentone politico è questo, che dentro tutte queste faccende, dentro tutte queste cose, dentro tutte queste situazioni si muove, qui veramente non c'è immobilismo, si muove una feroce ristrutturazione del capitalismo, e dentro tutte queste questioni noi dobbiamo fare i conti, come diceva Roberto, cercando di risorgere da sconfitte storiche del movimento proletario, del movimento popolare, del movimento dei lavoratori, della classe operaia. Quindi noi stiamo dentro questa tenaglia a due, ovviamente a due ganasce. Cioè una ganascia è che ti stringe, è la ristrutturazione capitalistica che sta avvenendo e che non guarda in faccia nulla. Andiamo dalla stretta del sistema creditizio, alla ristrutturazione bancaria, vediamo cosa sta succedendo, fino, diciamo, ai nuovi modelli di privatizzazione, e da questo modello non è certamente, lo spiegavo in maniera mirabile Peppe, non è esente sicuramente il servizio sanitario, le strutture sanitarie. Ora, e l'altra ganascia è la nostra, diciamo, sorta di, diciamolo francamente, compagni e compagni, una sorta di impotenza che viviamo nel dare delle risposte sufficienti, diciamo, all'avversario. Cioè ci sentiamo come in una sorta di impotenza che ci deriva indubbiamente, faceva bene Roberta a ricordarlo, anche da sconfitte pesanti, da sconfitte che hanno assunto, diciamo, una tinta storica, non sono state solo sconfitte causate anche da tradimenti di quei soggetti. I motivi delle sconfitte sono molteplici, sono la forza dell'avversario che si è dispiegata ad ampio raggio, sono state quelle che tu, Ettore, chiami tradimenti, ma comunque comunque le si definisca la resa delle forze della sinistra, la incapacità anche delle forze antagoniste, parlo pure di quelle che stavano alla sinistra del PC, di organizzare un livello di rappresentazione, di rappresentanza politica autonoma delle classi subalterne, per tutta una serie di motivi, di divisioni, di antiche incrostazioni. Cioè non abbiamo saputo interpretare quello che Peppe definiva il mondo che cambiava e la borghesia e le ristrutturazioni che la borghesia metteva in atto. D'altra parte, oggi per esempio leggevo in uno dei suoi soliti lunghi articoli domenicali su Repubblica di Scalfari, leggevo che lui oggi fa appello per superare la crisi ad una convergenza tra capitalismo democratico e nuovo riformismo di sinistra. Ora, quando si dice capitalismo democratico c'è una contraddizione in termini, perché il capitalismo non ha bisogno di aggettivi. Il capitalismo si forgia di volta in base alle sue esigenze. C'è stata l'epoca in cui era possibile fare la convergenza, alcune convergenze, e non è un caso che fiorivano le socialdemocrazie, soprattutto nei paesi dell'Occidente, del Nord Europa, erano possibili fare le convergenze. Oggi siamo arrivati ad una resa dei conti per cui la ristrutturazione capitalistica difficilmente ammette una mediazione di questo tipo. E quindi, però, di fronte a questo ci sentiamo un po' disarmati anche quando trattiamo i problemi. Poi alla fine veniva fuori Peppe, dice vabbè, ma dopo questa disamina su tutti i mali della sanità, sappiamo che è necessario per far fronte ai mali della sanità porre fine alla corruzione, malversazioni, clientelismo. C'erano anche delle proposte, veniva fuori questa cosa, insomma, che magari di strutture alternative legate da associazioni di tipo diverso, una maggior partecipazione dei cittadini anche su queste cose, una strutturazione sul territorio dei servizi sanitari in maniera tale da non ingolfare pronto soccorso e le strutture, diciamo, ospedaliere, cioè ci sono anche, c'è anche una visione che ci dà il senso che qualche proposta esiste. Il problema però che si pone è questo qui, è come questa forza, un ascoltatore, un compagno, diceva mamma attenzione che una certa disponibilità sociale c'è anche, io penso che sia vera questa affermazione, cioè io non credo che in Italia ci sia, lo potremmo diciamo fare, affermare questa cosa anche constatando tutta una serie di lotte, di iniziative che si muovono nelle varie parti del paese su vari temi. Una certa disponibilità sociale c'è, ma è disordinata, non è organizzata. Siamo in una sorta di quello che una volta si diceva, una sorta ancora di primitivismo di tipo sociale. Cioè, anche nella migliore delle ipotesi, se noi riuscissimo a ottenere, cosa che poi a volte avviene anche, di ottenere alcuni risultati da vertenze anche importanti, portando avanti lotte anche diciamo serie, sostenute, quello che manca comunque è un raccordo di queste lotte e una, come dire, è un riscontro politico che si dà diciamo alla vertenzialità sociale. Cioè qui adesso, guardate, non è una questione da polemica se si deve il partito sì, il partito no. Qui il problema, io già lo dicevo già insieme ai compagni qui in studio nelle settimane precedenti, il problema che è all'ordine del giorno è come questa vertenzialità diffusa, queste forme di auto-organizzazione si organizzino. Il problema è come queste forme trovino anche delle sedi attraverso le quali si arrivi ad un progetto politico, a un programma politico che unifichi questa lotta, perché se il sistema capitalistico si muove in un quadro diciamo mondiale attraverso diciamo la globalizzazione dei suoi strumenti di riproposizione, ma noi compagni qui dobbiamo sapere che lottando vertenza per vertenza, le questioni del policlinico, le questioni della NOTAV, le questioni dei pastori sardi, però se il problema che il capitale pone è quello di una ristrutturazione generalizzata, qui l'imputato, e se il sistema, come diceva prima Peppe, nel caso della sanità è un sistema fallimentare, ma è fallimentare anche il sistema del credito, ma è fallimentare anche il mercato del lavoro, e questi si vogliono ristrutturare accentuando la loro forza diciamo attraverso una diminuzione della democrazia, un controllo della democrazia, un controllo del mercato del lavoro, un abbattimento della forza organizzata delle classi che si contrappongono ad una visione di questo tipo. Beh, allora compagni, qui l'imputato noi dobbiamo sapere che l'imputato principale di questa vicenda è il capitalismo con tutte le sue scusa, però io sono d'accordo, però il problema secondo me, vorrei riportare un attimo più a terra. Allora, guardate, si è mossa questa storia? Allora, qui dico solo una cosa semplicemente. Noi esattamente un anno fa abbiamo tentato di forzare questa situazione partendo da zero, cioè non c'avevamo la stampa attorno, per costruire un'iniziativa con un'assemblea invitando tutti a cittadinanza e cose. Abbiamo fatto dei manifesti con la foto dalla piazzetta, l'abbiamo messi dappertutto al Policlinico, abbiamo convocato questa storia chiamando tutti quanti, ponendo un certo tipo di problema. Chiaramente non ci si è affilato poca gente, siamo riusciti a fare due commissioni che dopo due minuti sono finite perché questi hanno detto ma ragazzi lasciateci lavorare che c'è altro da fare, e non ci abbiamo avuto la forza di farlo. Adesso si è ripresentato questa storia, si è ripresentata diciamo con tutta l'attenzione possibile, insomma, con tutta la questione possibile. Guardate che quando si muove qualche cosa a questo livello, voi non ve potete immaginare, non è che uno si deve immaginare che c'è una reazione compatta e anche indirizzata a capire quali siano le cause. Si muovono una serie di forze, di merda che riesce fuori da tutti i punti di vista, perché rispetto a questo attacco, che cosa è successo? Sono uscite fuori tutta, per esempio, una questione di difesa universitaria, che poi invece è l'origine della storia, che però ti viene a dire no, perché questi ci attaccano a noi perché ci vogliono togliere i soldi, perché qui ci devono dare più soldi, che poi se li bagneranno loro. Cioè, addirittura Frati va in difesa di queste cose qua, e per partire dai vertici, ma anche sotto, c'è sta quello che non vuole che si rovini sto gioco, perché dopo alla fine, quindi non è che tu c'hai una cosa definita, c'è un casino di cui riportare le questioni a una visione che è una visione, no, prima si diceva di classe, ma se noi andiamo a dire, cioè, se non vogliamo usare questi cosi, no, una... ma Peppe, io penso che proprio questi termini vadano riusciti. Ho capito, ma noi, sì, ma non è che se non li usiamo o non li usiamo cambia la storia. Questo è verissimo. Ha capito? Cioè, però... il problema non è questo. Il problema è che in mezzo a tutto sto casino, tu, sotto certi aspetti, in questo tipo di società, sei ancora una minoranza, sei una minoranza, e sei, fra l'altro, pure divisa. E fra l'altro, lo potremmo dire, sì, archeologica su certi aspetti, sì, perché come sei organizzato te, io la posso dire tutta, oggi il sindacalismo alternativo è, sì, un'archeologia, non, proprio non se l'incula questi problemi, ci passa sopra, non c'entra, non, manco entra nel sociale, dentro queste questioni, se non a livello... E questo è un problema che ci sta, non è questo. L'altra questione, secondo me, invece è questa. Questi sono incartati, tutta sta lucidità in questa ristrutturazione, io non la vedo. Questi problemi che usciranno fuori, perché esploderà, voglio vedere con Malagrotta come cazzo si mettono, e voglio vedere col Policlinico come cazzo si mettono, perché questi sono irriformabili. Questi problemi, pure che ci si mettono, non so capace a risolverli, pure che devono rinunciare. Quindi tu andrai verso una situazione in cui, se sei un attimo lucido, cercherai di capire quale so, e probabilmente al di là di fare iniziative e cose, e standoci comunque dentro e non fondandoci su tutti le archeologie anche mentali di 40 anni fa, potrai starci dentro e cercare di capire, e te la giochi, perché non è detto che vinci, perché potrebbe essere pure una deriva di destra che arriva come risposta, perché se tu non c'hai una soluzione, o comunque non c'hai la capacità di portarla, ce l'hai. Se no, tu se tu c'hai questa cosa, ci starai dentro e devi lavorare per questo. Però insomma, quindi ti dico, non è che uno si deve rifare a individuare i nominativi, le cose, tocca capire che stiamo in questa situazione, che questa situazione si aggraverà, perché risposte non ne darà, non è in grado di darne, perché se sono incartati questi, te manna, fanno saltare banco prima che non ci riescono a sistemarla sta storia, perché o proveranno a sistemare, ecco, privatizzeranno ancora, ma perché se privatizzano dovremmo risolto qualche cosa? No, anzi. Oppure praticamente, ormai, cioè, ma tu mi dici che c'è de pubblico dentro il Policlinico? Dentro il Policlinico non c'è più un cazzo de pubblico, perché ci stanno tutte le cooperative dentro, ci stanno le case farmaceutiche che comandano, c'è sta un sistema, e questa è un'altra storia che vi devo dire, raga. Dentro sti cazzo d'ospedale, in particolare al Policlinico, l'aziendalizzazione, non hanno manco vista. Ma quale azienda tiene nella struttura del Genoa che fa 150 milioni di debito? Questa ancora magnano, questo è un sistema medievale, ancora, infarcito con qualche elemento di ultra privatizzazione, ma solo per fare i cazzi loro, per mugni ancora di più la vacca, per cui ti dicono dammi altri soldi che io rifà. Questi stanno ancora a livello che hanno rifatto i sotterranei, mo li devono rifare e dopo li faranno all'altro. Se vogliamo essere proprio chiari, il politico deve essere chiuso. Non può funzionare così. È incompatibile un ospedale del genere fatto in questo modo con le cose. Quindi io penso a questo. Dopodiché è chiaro, io sono riuscito a rovinare pure un policlinico nuovo perché Tor Vergata non aveva. Ma non è perché nasce con lo stesso sistema. È identica. Guardate, io non sono in grado di dare una risposta. Non sono in grado. Io l'unica cosa che ho cercato di fare è stiamo dentro queste cose. Cerchiamo di capire se qualcosa si muove. In tutto quello che si muove, non tutto mi piace. Allora, un'altra cosa. Noi martedì facciamo un'assemblea che ve lo voglio dire, è stata abbastanza un'invenzione. Cioè, è perché abbiamo. Qualcuno di noi è riuscito a dire, ma intanto trovavo un posto dove parlavo, ma non è l'assemblea dei lavoratori proletari che vanno contro la lotta, non è questa, e toccherà vedere, toccherà giocarsela, verrà pure Marino, perché è stato invitato e quello via. Questo è l'ambito che oggi è possibile far cercare di mettere in movimento le cose dentro sto cazzo di movimento, cercare comportamenti. Senti, io sono d'accordo con te, noi quello che dobbiamo cercare di fare è di mettere in movimento e di raggrumare ciò che socialmente può essere, diciamo, raggrumato. Però io penso che sia anche il momento, e tu lo stai facendo, e non c'era contraddizione nella discussione di oggi, nemmeno qui in studio, tra le cose che abbiamo detto, di mettere in moto pure un po' il cervello, nel senso di non aver paura, pure di navigare un po' più in là, perché vedi Peppe, io sono d'accordo con te. Il capitalismo nelle sue forme, nella forma in cui si presenta qui in Italia e non solo in Italia, non è invincibile, e son convinto come te che sia avvolto in una contraddizione insanabile che ci può portare a svolte di destra, in una barbarie eccetera. Ma se siamo consapevoli di questo, bisogna che qualcuno, senza avere pretese velleitarie, sapendo, tenendo i piedi ben per terra e partendo dalle vertenze, io questo lo ribadisco sempre, dalle lotte concrete e raggrumando, rimettendo insieme corpi sociali che si sono dissolti e che abbiamo dissolto anche per demerito nostro, fare un ragionamento politico, cioè se noi andiamo incontro a una catastrofe di questo tipo, ma qual è la risposta che i comunisti, che le forze antagoniste cominciano a dare? Cioè anche da un punto di vista teorico del progetto politico, qui bisogna che uno sforzo lo si faccia. E sono d'accordo con te, dimenticando le antiche storie. Io qui ci sto. Ma no, dimenticandole, voglio dire, però. No, dimenticando. Però è un altro panorama. Panorama. No, io non dimentico niente. Io guarda, io vengo da una storia lunga nel PC poi Rifondazione, poi con Ettore siamo usciti nel 96. Io negli anni 70 ho avuto anche momenti per collocazione diversa, conflittuali con i compagni che sono stati storicamente protagonisti di sta radio. Ma io oggi qui ci sto bene a ragionare con i compagni che ci hanno l'intento di guardare, come dici tu, di andare oltre. Noi non rinneghiamo niente, non rinunciamo a niente, nemmeno ai nostri errori. Però Peppe, qui io accolgo le tue parole. Io guarda, ho sentito in te una pulsione, diciamo, a guardare più. Sei partito e l'ha fatta anche in maniera mirabile, da un problema molto concreto. Ci hai dato uno spaccato molto preciso, non solo del policlinico ma della sanità più in generale, ma io ho colto anche un'esigenza ad andare tutti insieme a studiare qualcosa di più, andare oltre, poi sapendo che tenendo i piedi per terra e contando sulle forze limitate che oggi ovviamente abbiamo, che però devono essere pure sviluppate, io non c'ho nessuna remore, Peppe, a ripristinare antiche parole, antiche terminologie. Perché io assumo pure la lezione del marxismo come una lezione storica, non come un dogma. Oggi io credo che ci siano tutte le condizioni pure per fare un ragionamento in chiave marxista, un'analisi marxista di queste situazioni, e noi di fronte a una situazione che ci chiama a questa esigenza non ci dobbiamo ritrarre, non ci dobbiamo parlare di problemi molto concreti, come ci richiama sempre all'ordine Ettore, perché poi magari ha paura che se non si parla di discorsi molto concreti ci sono poche telefonate. però questo qui va tutto innervato dentro un disegno che è un disegno di una ricostruzione pure nostra, che sia una risposta da una ricostruzione che altri, sono d'accordo con te, non è detto che riescano a fare, ma se non la fanno ci portano alla barbarie e al disastro. Beh, insomma, io su queste cose bisogna che il ragionamento vada ripreso. Sì, ma allora io credo che una cosa bisogna capirla: qui ci hanno riportati all'età della pietra dal punto di vista teorico. Cioè, il movimento rivoluzionario antagonista, quando sviluppava la sua forza d'urto, le lotte, eccetera, oltre che la piazza, aveva l'altra arma che era la teoria. Oggi quello che manca è proprio questo, nel senso che ci hanno portato, no, a non avere più una chiave di interpretazione della realtà. Allora, io non è che dico che bisogna rifarsi al marxismo, io semmai dico che bisogna rifarsi a Marx, no? E ripartire da là, perché voglio dire, se noi non abbiamo neanche questo, no, come chiave di lettura di quello che sta accadendo, ragazzi, siamo messi male. Ma a chi se dobbiamo rifare? Allora, qui uno sforzo teorico per ritornare a avere anche questa arma, che è di analisi, di critica, ma anche poi di lotta, cioè che dà un senso alle lotte, dà un senso a una progettualità. Se viene a mancare questo, come in effetti sta avvenendo, è ovvio che avremo la parcellizzazione, avremo i conflitti, ognuno per conto proprio, e non si riesce poi a rimettere tutto insieme, arrivare a una sintesi che consenta una ripresa. Allora, io sono d'accordo con Servino, ma perché io non devo parlare più di classi? Ma fatemi capire, ma la società non è più divisa in classi? È divisa in classi o no? Se è divisa in classi, parliamo di classi, c'è cazzo da fare. Non è che possiamo parlare di popolo. Popolo è un concetto che non ci appartiene, perché è un concetto abusato, ad esempio, dalla destra, dal fascismo, e quindi in genere equivoci. Parliamo di classi, perché c'è la classe dei padroni e c'è la classe, le classi subalterne. C'è il proletariato, i lavoratori, gli operai, eccetera. Se noi non ripartiamo da qua, non recuperiamo in senso critico, no? Magari anche rinnovando tante cose, siamo disarmati, c'è niente da fare. Allora, ci abbiamo una telefonata, pronto? Pronto, Ettore, buongiorno. Buongiorno. Io vorrei dire due parole. Si tratta di questo. Io ho sentito il compagno che lavora nell'ospedale parlare delle relazioni fra lavoratori, però vorrei sapere quanto all'interno dell'ospedale, per esempio, delle strutture sanitarie, ci si rivolga da parte dei compagni agli ammalati e soprattutto ai familiari degli ammalati, per raccogliere quelle che sono le necessità collettive e quindi muoversi tutti insieme. Perché avviene una cosa: generalmente quando la persona sta bene, la sanità ci pensa poco, ha mille altri problemi di fronte, il quotidiano, quello da mettere sulla tavola, eccetera, che costa sempre di più e così via, e alla sanità pensa pochissimo. Quando si ammala, l'ammalato pensa a risolvere personalmente il suo problema e non invece a risolverlo in maniera collettiva. Da più importanza a una soluzione individuale, l'amico, il conoscente, il bravo medico, la struttura privata piuttosto che pubblica, eccetera. Io penso che se i lavoratori della sanità si rivolgessero anche agli ammalati e soprattutto ai familiari degli ammalati, si riuscirebbe a ottenere un collettivo di lotta maggiormente, non so, per quello che è possibile oggi, maggiormente esteso, in cui si rivendicano quelle che sono le necessità collettive. Ecco, questo che volevo chiedere, se c'è anche un rivolgersi agli utenti, quelli che si chiamano utenti, che sono poi altri lavoratori che subiscono il peso della sanità in maniera un pochino più eccessiva di quello che la ricevono i lavoratori che sono dentro e che almeno salvaguardano un salario per quanto riescano. Io vi ringrazio. Ciao, grazie. E buona continuazione della trasmissione. Sì, ciao, grazie. Ma io penso una cosa, che cioè questa storia di rivolgersi agli utenti, tra virgolette, si chiama gli utenti, insomma, così è una cosa che si fa, diciamo, normalmente e sempre. Il problema non è tanto rivolgersi, ma proprio per il fatto che diceva ascoltatore, purtroppo guardate che noi adesso in questo momento, in questa situazione, quelli che stavano, cioè il rapporto con i malati e con i parenti dei malati, alla fine in tutte queste condizioni, con tutte le tensioni che si possono creare dentro una situazione del genere, dove lasci uno 4 giorni su una barella là dentro e lasci chiaramente a fianco a quell'arte eccetera, cioè, il rapporto si è mantenuto perché, e non solo, cioè abbiamo avuto attestati, cose. Il problema non è quello, è che ritorniamo insomma al discorso di prima, un conto è la solidarietà, il fatto di sentirti su una stessa parte perché stai vivendo quell'esperienza e capisci che stai da due parti della barricata, ma stai dalla stessa parte alla fine, perché tu che ce lavori e quello che sta là capisce che non dipende da te. Però poi da questo a concretizzarsi in proposta e mobilitazione è tutto un altro paio di maniche. Io però volevo partire da un discorso semplice, cioè secondo me, cioè io, da quel discorso che ho fatto io, cioè dall'esperienza che ho avuto io quello che mi sono trovato di fronte, insomma, è un livello, a livello, non voglio parlare di compagni, a livello personale, mantenere quella situazione è una situazione, diciamo, inconcepibile, cioè non è ammissibile, no per i compagni, ma per qualsiasi persona, cioè pensare che, e questa storia di questa piazzetta tenuta in questa cosa, io adesso non mi voglio dire come funziona là dentro, perché, ma tutti quelli che lavorano al Policlinico ci sono passati, cioè l'hanno vista, la conoscono, lo sanno, perché ogni volta... Tutti che scappano, tutti che ti dicono ma come fai a lavorare là dentro, ma perché te ne vai, ma perché la cosa, ma è possibile ancora stare là dentro? Chi può, diciamo, se ne va da quella situazione? Io mi sono posto sto problema, sta questione, me ne vado quando ho risorto sta storia della piazzetta, perché ormai me la so presa quasi a livello, non dico personale, ma insomma per dire, possibile, perché... Se questo non fa muove nessuno, cioè se è tutto normale, se uno che concepisce che ci può essere una cosa del genere e non se ne occupa, tu puoi fare tutta la politica che vuoi, ma quello è un girone dantesco. Se tu permetti che esistano queste cose e non stai in mezzo al Sahara, ma stai dentro praticamente alla più grande università d'Europa, tu praticamente è inutile che fai politica, cioè tu non puoi pensare a altro, perché quella è la prima cosa che tu devi eliminare. E io non ci sono riuscito, cioè io e qualche altro compagno che se muoviamo là, che famo, che dico, utilizzando di tutto gli strumenti che ho potuto utilizzare, altri non li ho trovati, non ci sono riuscito, sto solo... Che questo, diciamo, era la cosa, l'obiettivo che mi sono posto io, senza fare tanti discorsi politici, tanta. Devo togliere questa cosa. Qual è il sistema per togliere questa cosa? Perché alla fine, poi, al di là di tutti i discorsi, secondo me, se si riesce a togliere una cosa del genere, vuol dire che in qualche modo tu hai dato una prospettiva, hai vinto su una cosa, sei riuscito a trasformare lo stato delle cose, che sto da 12 anni che sto provando a fare questa cosa, perché è il posto peggiore di tutto il politico, di tutto quanto, e anche se voi politicamente è l'emblema, cioè quelli abbandonati là mentre gli altri si fanno i cazzi loro dall'altra parte. Allora, uno parte da là e da là tu c'hai gente che ti viene appresso, questa cosa è sentita, c'è sta, non c'è il passaggio che, perché se ci stavano magari 10 persone, ma bastavano 10 persone, io mi incatenavo al rettorato, fine, ma se lo devo fare da solo, non, è inutile che lo faccio, quindi questo è il livello che c'è, è il livello che c'è sta, e io mi fermo là, poi gli altri discorsi, cioè, secondo me, tanto affronta queste cose, affronta dove stai te, vede la contraddizione che c'è sta, c'è proprio a farlo. con i livelli che c'è stato, se poi c'è qualcuno che ha altre idee, altre forme, una teoria che te, quello che vi pare, vabbè, io accetto tutto. Per me, io sono partito da una condizione personale. Questa è una storia inaccettabile, perché se poi risolve, perché è una cosa che si può risolvere. Non è che ci vuole chissà che è una fatalità, no, è una cosa che se può risolvere, se tu riesci a cambiare delle cose. Quando riusciremo a mettere una quantità di gente comparabile, diciamo, a un minimo di massa critica che è decisa su questo, noi stasera eravamo risolta già 10 anni fa, non ci siamo riusciti, probabilmente abbiamo sbagliato sicuramente qualcosa o no, però insomma uno ha fatto quello che poteva fare, diciamo, in questo senso, ve l'ho detto, insomma, senza parlare di organizzazioni, di storie, da questo sempre, anche perché dentro questi posti le organizzazioni non esistono, non ci stanno, cioè non è quello là, il problema è che uno ci andando a lavorare, è come arrivare alla fine di quella giornata senza piazza e una denuncia, cercando di mantenersi un attimo dignitosamente rispetto ai malati. Questo è il problema che si pone, e io, questo è il problema che devo dare delle risposte a quei lavoratori e a quei pazienti che stanno là dentro, de come fa quello. Se io riesco a trovarlo sto sistema, in qualche modo mi ci sono puntato, è quello che si fa. E forse da ste basi può rinascere una politica diversa. Dopodiché, se c'è qualcuno che ha delle idee diverse, delle cose, emergersi, non emergersi, ma magari, però una cosa la voglio dire, guardate, noi possiamo andare a fare strutture parallele, autogestito o cose del genere, ma calcolate che noi abbiamo delle istituzioni pubbliche, abbiamo una riforma sanitaria che piano piano sta, cioè devono funzionare quelle, cioè noi non possiamo pensare che sia fatta da una cosa, cioè tu c'hai la possibilità di farle funzionare, quelle non funzionano per certi interessi, e quindi quelle devono funzionare, tu mi devi dare delle risposte, non è che io possa andare a fare una cosa diversa. Io una cosa alternativa ho pure fatta, l'ho fatta per 3 anni, abbiamo fatto un ambulatorio per stranieri perché stava lì, perché gli ma lo spirito qual era? Era, questi cittadini sono cittadini di serie B, perché quello che gli serve non è il pronto soccorso, ma è praticamente un medico di famiglia, a chi le porta? E venivano per cose che in pronto soccorso non gli poteva fare niente, ma chi gli faceva la ricetta? Chi gli ordinava la lassa? Chi la riportavano a far vedere? Come volontariato, e abbiamo detto all'amministrazione, dateci un pezzo di coso. 50 persone abbiamo mobilitato tra infermieri e medici, perché per 3 anni hanno tenuto aperto questo ambulatorio, ma non con lo scopo che dovevamo sostituire, che dovevamo comunque dire, oh, guardate che c'è questo problema, io ti dico come si può fare per risolverlo. Ma voi pensate che nella mentalità di queste cose, nel minimo di mobilitazione che c'è, queste esperienze non contano? Queste sono passate così, pure queste cose così, ma non è che le cose non sono state fatte, non è che tu non hai dato la possibilità, gli hai dato, cioè ogni problema che c'era cercavi di dargli un'impostazione, chiamate classe, chiamate come te pare, ma insomma così, ci sono state. Se questa cosa non è venuta fuori, se praticamente tutte queste storie poi non si risolvono in una presa di coscienza collettiva eccetera, ma ci sarà pure qualche problema, certo ci sarà stata disponibilità, mancherà qualche questione teorica che ti porta avanti, non lo so, può darsi pure che manca questo, però queste cose insomma diciamo che sono state fatte. C'è una telefonata? Non lo so. Pronto? Aspettiamo un attimo. No, vabbè, ma non è caduta la linea. Vabbè. Noi stiamo arrivando verso la fine, ormai mancano pochi minuti. Una cosa che volevo dire, comunque noi martedì sta assemblea la facciamo, eh. Ecco, io proprio a questo, dato che tu martedì annunci in assemblea, c'è questa iniziativa di psichiatria infantile che lunedì fa il funeral e party, ci sono musiche e balli, cioè un po' divertente, alternativo, per denunciare e segnalare che stanno per chiudere pure questo reparto, un reparto di psichiatria infantile. Questa radio ne ha parlato, ne parlerà, perché una protagonista di questa storia fa una trasmissione da sta radio, pertanto annunciamo pure che le iniziative ci sono. E quello che dicevi tu, caro Peppe, io perché ti ho chiamato? Perché conosco la tua storia, da parlarne pure da sta radio, no? Il problema rimane che c'è una disattenzione di tutta quell'area, non mi rivolgo al popolo come dice lui, di tutta quell'area, di compagni militanti attivi in mille altre cose, che queste cose vanno prese comunemente, cioè venire al policlinico non devono essere solo gli infermieri, anche gli infermieri, ma ci devono essere i cittadini, devono esserci i compagni di movimento a sostegno di queste cose. Quando io faccio la provocazione, mica tanto, dato che si occupano spazi per i centri sociali, spazi per le abitazioni, occupiamo i spazi pure per la sanità e magari darli in autogestione a delle strutture militanti come Emergency, che riescono a dare dei servizi a meno costo e più qualità. È un modo proprio per integrare la lotta. Non mi metto in contrapposizione con le teorie che vanno sviluppate, però studia e te lavora, oppure in dialetto, non posso aspettare, in dialetto c'è un proprio che dice a callo medico calabrese, e a callo medico studia un malato se ne va, nel frattempo che noi rilanciamo le teorie della cassetta degli attrezzi, nel frattempo ci hanno seppellito. Reagiamo affinché non ci buttano l'ultime palate di terra addosso, come stanno facendo. Avevo cominciato dicendo lo slogan pagherete caro, pagherete tutto, e lo stanno facendo Marchione e la Fornero questo, e noi non reagiamo perché dovevo ristudiare i cassetti dell'attrezzi. Me sta bene, ma nel frattempo che studiamo reagiamo a queste aggressioni. Perciò non c'è una contrapposizione fra me e le teorie. Io le teorie le cammino in parallelo, ma nel frattempo va data una risposta all'arroganza di Marchionne, che non solo il giudice lo condanna, ma poi gli dice ma voi non venite manco più a lavorare, ve pago e statevene a casa. Non può essere una risposta, come ha detto Landini, lo denunciamo sul terreno penale. Qui è una questione di democrazia, va denunciato sul terreno del conflitto. Non mi posso affidare ai giudici. I giudici sono quelli che stanno reprimendo i movimenti di lotta, come quelli della TAV. Quelli giudici sono quelli che hanno dato 5 anni a dei ragazzi perché si sono trovati negli scontri a San Giovanni e non sanno manco se sono vero che partecipavano loro. Solo perché c'erano. E allora noi dovremmo trovare questa condizione di reagire e pensare che le lotte che si fanno non può, riguardano a tutti. Poi questa della sanità riguarda ancora di più, perché tutti noi, o per una cosa o per un'altra, ci avremo a che fare con queste situazioni. Pertanto, no, ormai andiamo, se non ci avete da dire niente, io chiuderei qua. La cosa, danno l'appuntamento martedì. Sì, martedì c'è questa... A che ora e dove? Alle 10:30 abbiamo fatto, abbiamo pensato in grande, ci siamo presi l'aula più grossa del Policlinico, che è l'aula Stefanini, che sta praticamente a fianco del pronto soccorso. E aula che, cioè l'aula c'è, ci sarà sicuramente, però abbiamo notato anche lì molte resistenze incrociate da tutte le parti. Prima c'era, poi non c'era, poi ci hanno fatto girare insomma, cosa che normalmente non succede, perché è completamente vuota l'aula, quindi comunque l'aula la prendiamo, ecco. Ecco, l'aula, allora all'aula Stefanini al Policlinico 10:30, poi domani alle ore 19 a via di Sabelli c'è una conferenza stampa di presentazione di questa ennesima malasanità di voler chiudere il reparto di psichiatria infantile, di doverlo ridimensionare, e gli operatori di questa struttura organizzano questa assemblea, questa conferenza stampa di denuncia di questa situazione, e poi la sera ci saranno spettacoli con musica in diretta pure dentro questa situazione. Allora la partecipazione non può essere solo degli addetti ai lavori o di chi è coinvolto da questa situazione, ma deve essere di tutti i compagni, di tutte le cose. Con questi appuntamenti noi diamo appuntamento a domenica prossima, ricordando pure che è necessario questa radio per poter continuare a camminare, mettere i soldi alla sottoscrizione, il conto corrente postale 6180 4001, intestata via dei Vosci il 56, Radio Onda Rossa. Pertanto a domenica prossima e ci sentiamo. Allora.